amici congiunti, difensori e grave ed alta la cagion che ne aduna oggi a consesso. Rende Zerillo stesso agli le nostre parte e nei montecchi sostenitor si spera. Oste possente ad assalirne in via, duce ne viene dei ghibellini il più abborrito e reo, il più fiero di voi, Romeo, Romeo, quel Romeo, quel crudo del mio figlio ucciso. Egli, fra voi chi sia che il creda, egli di pace ardisce patti offerir e ambasciator mandarne a consigliarla noi. Pace, signor! Giammai! Ne udire il vuoi, utili forse onesti saranno i passi. A così lunghe gare, giovane Arvino mai, corse gonfio di sangue, adige assai. Fu vendicato il mio soltanto enulto, chi lo versò respira. E mai fortuna non l'ho persa agli sguardi, ignota tutti poiché fanciul partia, vago Romeo di terra in terra, ed in Verone stessa ardi più volte penetrare ignoto. Rinvenirlo io saprò, e feci il voto. Serbata questa giaro del tuo sangue, del tuo sangue la vendetta, l'ho giurato per Giulietta, tutta Italia ce lo sa. Braccia a tenere. questa flippa e non giacente, ella che sai potria soltanto irne a forza, al sacro altar irne a forza, al sacro altare. Ave, a forza! Anziché il sol tramonti, compiuto il voglio. Ella doman più lieta fiacher allegri le paterne mura. Ubbidisci. Ah, signori! Ti rassicura. Sensi dei miei diversi non può nutrir Giulietta. E a lei fia caro, come a noi tutti, il pro guerrier che unisce i suoi destini e i miei. Di tanto bene mi persuade amore il cor propenso a creder vero quel che più vorria. Ma già ver noi s'avvia il nemico orator. Avvi fra voi chi de Montecchi alle proposte inchini. Fermata e mille volte infranta. Stassi in tua man che santa inviolata sia. Ma in Verona abbian seccio i Montecchi e sia Giulietta sposa Romeo. Sorge fra noi di sangue fatal barriera. Sarà mai tolta, giammai, lo giuro. Thank you. Giulietta, egli è in Verona. Oh cielo, io me lo vedi. All'improvvisa gioia reggerai tu. Io che ho l'affanno. Or dunque, ti prepara a vederlo? Io te il guidai per quel segreto a noi sol noto ingresso. Oh, mia Giulietta, Romeo! Parla sommesso! Io te rivedo, acciaio, sì, te rivedo al fin. Oh, mia Giulietta, qual ti ritrovi a mai? Priva de spene, pigra languente, il vedi, e vicino alla tomba. Felice del cuore, stanco il fine di questa vita travagliata e oscura, non consolata mai da un tuo sorriso. Vengo, vengo a morir deciso, a rapirti per sempre ai tuoi nemici. Ecco fuggire dai tu, thank you. Thank you. inoltrar di più. Mal ti nasconde questa de Guelfi assisa? Qual mio periglio pensar posseo quando un rival s'accinge a rapirsi il mio fen? Ma ciò non feo, non fia per certo il giuro. Lasso, e tolta forse ogni spene. Una men resta. Ascolta! Segretamente in due che spoglia molti col favor della notte, entro di luna mille si stanno di belli armati. Cielo! Non aspettati di un verun sui nemici, ed interrotte fian le nozze così. Funesta notte, e me di sangue strage complice il fai, me traditor di questa famiglia rendi. Ben mi svela e salva il mio rival così. Quanto volto? Io prego! Oh, cioè estremo! Allarmi, allarmi! Fuggi! Se vuoi ad oltre, io ci ho porto e ti porto! Fatti, fatti, a noi non prego! Questa corte è Oh, Thank you. estrema fermezza or non provvedi. Che far, favella? Hai tu coraggio? E chiedi. Prendi al filtro è questo e si possente che sembiante a morte sonno produce. A te, creduta estinta, tomba fiadata nei paterni abelli. Oh, che ne tu, fra quelli, giace il fratello a Romeo trafitto. Al tuo svegliarti sarem presenti il tuo diletto ed io. Non paventar. Credi. Costanza! Lo sposo, se appresta giuramento io provo, quale scompiglio in cor. Bacio pietade, vilta saresti. Dite volto in troccia corra qualcuno, e di Lorenzo i passi spiate voi. Sospetto mai me desso, né uscir né altrui parlar, gli sia concesso. girarti furtivo in queste mura. Non odi tu? Non t'ho presso. Onesto, e conoscermi fora. Io ti conosco all'audace parlar, all'ira estrema che in me tu desti. Ben mi guardo e tremo. Salto a un sol mio grido, a un sol mio grido, mille apulizia, sai, salto. Ma chi tu sei, servata a questo già. Solta un sol, un sol mio grido, mille accuditi, puliti avrei. Ma vittima tu sei, servana questo acciar. Sento. baciando il cor mi fa. Per te morta di dolore, fondi te mio disperato, si parla col mio frito. Sempre, se non hai vivo il suo figlio, sospiro. Fermo, che vuoi?